Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, prima puntata di Focus Economia della settimana. Allora, parte bene per ora la settimana sulla scia di quanto avvenuto la settimana scorsa. C'è il vertice Eurogruppo, ci sarà questa sera, e domani il vertice Ecofin. Gli oggetti o i temi sul tappeto si chiamano in primo luogo Grecia, vedere se si arriverà a un accordo in extremis per la rinegoziazione del debito greco, accordo bloccato dai privati, dai creditori privati della Grecia, e dall'altra però anche la possibilità per l'Italia di rinegoziare non tanto il testo che porta i vari paesi, che impegna i vari paesi a arrivare al 60% del debito sul PIL in 20 anni, quanto un ammorbidimento del percorso, cioè introdurre altre variabili, per esempio la congiuntura economica, che non è una variabile irrilevante. Perché questo? Perché è chiaro che se l'Italia, che ha un debito che viaggia intorno al 120% del PIL, dovesse ridurre questo debito in 20 anni di 60 punti, significano 3 punti percentuali di PIL all'anno solo per ridurre il debito, ossia 45-50 miliardi di euro all'anno, cioè una manovra, mega manovra solo per ridurre il debito, senza considerare poi eventuali altre correzioni del deficit. E quindi i mercati ci credono, ma soprattutto, oltre che andare molto bene Milano, più 1,60, Parigi, Francoforte, mezzo punto percentuale di rialzo, l'America più 0,90, Londra più 0,90, l'America è invariata, è tornato sopra quota 1,30 l'euro, 1,30,39. Molto bene Monte dei Paschi, dopo la rinuncia all'aumento del capitale, guadagna il 13,60%, Unicredito più 10,40%, Intesa San Paolo più 6,5%, Ubibanca più 5,30%, Mediobanca più 5,10%, Banco Popolare più 3,15% e Popolare di Milano più 2,16%. Bene anche Finmeccanica più 6%, come Azimut più 4,40%, Fiat Industrial più 3,40%, Diasol in più 2,20%. Negativa Enel Green Power meno 1,80, Ansaldo STS meno 1,5, Terna perde l'1,5, Telecom l'1,30, Snam l'1,16, mentre Eni guadagna lo 0,20%. Parleremo di questo chiaramente, ma parleremo anche del blocco dell'autotrasporto. Allora, lo dico subito, vale per gli autotrasportatori, vale per i tassisti, vale per tutti. Il diritto allo sciopero è un diritto. Il blocco del traffico no. Così come l'assemblea spontanea per cui tu non, che hanno fatto alcune volte i tassisti, no. Se tu vuoi scioperare come i tassisti hanno fatto, annunci la data e informi i cittadini che quel giorno i taxi non ci saranno. Autosospendere l'attività per un'assemblea spontanea o bloccare, come hanno fatto in Sicilia e in alcune parti dell'Italia, oggi l'accesso alle autostrade è un'altra cosa, non ha nulla a che vedere con il diritto di sciopero e, ma a mio avviso, fa bene il governo dire che non verrà tutelata. Scioperare è un diritto per una rivendicazione, non può essere una cosa selvaggia, si chiamavano scioperi selvaggi una volta. Primo tema che però affronteremo alle 18, il tema con cui apriremo chiaramente il Consiglio dei Ministri sul lavoro, anche qui non seto incontro con le parti sociali del Ministro Fornero, non Consiglio dei Ministri, ma incontro con le parti sociali del Ministro Fornero, non si è toccato l'articolo 18 e invece sul tappeto qui c'è il tema della cassa integrazione e ne parleremo, e chiaramente avremo un approfondimento anche sul vertice Eurogruppo a Bruxelles. 349-238-6666 per i vostri sms. Sì, alcuni scrivono, beh, da quando le agenzie di rating ci hanno declassato, le cose sono andate bene. Sì, non penso che ci sia così in automatico, diciamo che forse con la massima prudenza possibile, alcune manovre la manovra Salva Italia del governo Monti ha ottenuto qualche effetto sui mercati, ma soprattutto sembra trapelare un po' più di coesione nella stessa Europa. Forse anche la Francia ha preso paura dopo il declassamento di Standard & Poor's e quindi capisce di più l'idea unitaria, forse anche la Germania, visto l'anno di recessione che colpirà anche la Germania praticamente, andrà in stagnazione, si sente un po' più europea e un po' meno, diciamo, isolata. Fatto sta che obiettivamente per ora le cose stanno girando, per ora. Massima prudenza, le notizie in breve. No, la borsa, lo dico a chi scrive, non sta festeggiando che i cittadini pagheranno il debito pubblico, sta festeggiando, diciamo così, il fatto che si possa essere o scommette su un accordo sulla Grecia, e per quello che riguarda l'Italia si scommette che l'Italia possa ottenere anche un ammorbidimento del rientro sul debito, introducendo per esempio variabili esterne che contano. Dopodiché, insomma, noi dobbiamo rientrare sul nostro debito, lo deve fare anche la Germania, deve fare anche l'America, scusatemi. Ecco, in un momento di recessione economica, andare proprio a tagliare pesantemente sul debito, secondo me, è un atteggiamento recessivo ulteriormente. Cioè, bisogna tagliare quando hai le vacche grasse, non quando hai le vacche magre. Però vedremo se la Germania se ne convincerà. L'oro a 1664 dollari l'oncia, il petrolio si riavvicina a 100 dollari, ma qui pesa l'embargo verso l'Iran. I paesi dell'Unione Europea infatti avranno tempo fino al 1 luglio per rescindere tutti i contratti petroliferi in corso con l'Iran, mentre per i contratti di nuova fornitura lo stop sarà immediato. E questo è l'accordo trovato tra i 27 paesi dell'Europa per imporre un embargo petrolifero contro l'Iran, approvato, e anche sanzioni contro la banca centrale iraniana. Volete sapere dello spread? Lo spread è a 407 punti base, siamo sempre su un livello alto, perché ripeto, finché non lo vediamo a 280-300 non si può parlare di un livello accettabile, però... Però attenzione, insomma, 407 punti base significa 170 punti quasi in meno rispetto al picco peggiore, quello che precedette le dimissioni di Berlusconi, quindi parliamo dell'11-12, vado a memoria, novembre. Allora, chi scrive, fanno bene a scioperare selvaggiamente, altrimenti quando cambieranno le cose? Ma mi scusi, sulla base di questa logica, allora dovremmo eliminare tutta la legislazione sullo sciopero, che prevede, appunto, che non prevede lo sciopero selvaggio, non prevede che tu possa bloccare i mezzi pubblici così, perché ti svegli la mattina e fai delle assemblee spontanee. Dichiari, come mi sembra di aver letto, che per esempio venerdì ci saranno problemi sui mezzi di trasporto pubblici, comunali, locali. Quello è regolamentato. Farlo così senza avviso non ha senso, bloccare il trasporto non ha senso. E poi quando cambieranno le cose? Ragioniamone. Gli autotrasportatori, li avremo ospiti più avanti, protestano sul caro carburante. Ora, il governo può fare sicuramente qualcosa sulle accise, ma sappiamo tutti da dove arriva la pressione sul petrolio a 100 dollari. Può fare qualcosa sui petrolieri e sulle accise che sono dello Stato, IVA e accise. Però insomma, non è una manovra del governo Monti sulle accise quella che sta strangolando l'autotrasporto, eh? E poi deve essere anche il diritto a non scioperare. Allora, voglio dire, le botte ai tassisti che cercavano di svolgere il loro lavoro non sono accettabili, perché vi immaginate cosa sarebbe successo se la FIOM, che era contrarissima all'accordo di Pomigliano d'Arco, di Mirafiori, si fosse messa a fare picchetti violenti e non fare entrare gli operai in fabbrica? Cioè, l'avremmo giustamente criticata, un ritorno agli anni 70. E allora, se non lo può fare la FIOM, non lo fanno neanche i tassisti, abbiate pazienza. Andiamo avanti, lo spread è in discesa a 407 punti base, dicevamo. Monti sarà da Barack Obama alla Casa Bianca il 9 febbraio prossimo. Dell'Eurogruppo parleremo più avanti, anche se sulla Grecia il ministro delle finanze francese François Baroin ha detto i progressi sono tangibili nelle trattative. E poi c'è anche un caso di cui parleremo più avanti per quello che riguarda la crisi, cioè quello che ha deciso la Grecia sugli evasori fiscali. Ve la ricordo il nostro GR, la Guardia di Finanza ha scoperto in Italia chiaramente 50 miliardi di redditi non dichiarati nel 2011, 8 miliardi di IVA evasa, 12.000 persone denunciate, 7.500 evasori totali, nascosti 21 miliardi di redditi. Questo mentre aumentano purtroppo i fallimenti aziendali, il CERVED fotografa oltre 12.000 fallimenti, più 7% nel 2011, dall'inizio della crisi, dal 2009, persi 300.000 posti di lavoro in questo paese. E poi una notizia che ci fa piacere, perché c'è un accordo tra il Ministero dell'Ambiente e il gruppo Pirelli per ridurre l'impatto sul clima derivante dall'attività di produzione e impiego degli pneumatici. Accordo firmato oggi dal presidente del gruppo Pirelli Marco Tronchetti Provera e dal ministro dell'Ambiente Corrado Clini nell'ambito di una conferenza internazionale Driving Sustainability. Sentiamo dalla voce dello stesso presidente della Pirelli, Marco Tronchetti Provera, al microfono la nostra Anna Marino, che cosa prevede questo accordo? Parte dall'impegno che noi abbiamo avuto e dalla capacità di tutto il nostro team di raggiungere obiettivi straordinari in termini di sostenibilità. Per 5 anni noi siamo stati e siamo leader mondiali nell'automotive in tutti gli indici principali di sostenibilità. Il bilancio di sostenibilità diventa obbligatorio a livello europeo, ma non solo perché serve per sicurezza e ambiente, serve per la competitività dell'Europa. È una delle grandissime occasioni per avere un nuovo modello di sviluppo che vede l'Europa in prima fila con una capacità di creare posti di lavoro, nuove infrastrutture. Insomma, credo che sia qualcosa di molto serio che talvolta viene sottovalutato. Su che cosa puntate di più per una crescita sostenibile? Noi puntiamo su tutta la filiera della produzione, dagli acquisti alla produzione alle vendite, su un controllo continuo del miglioramento delle emissioni di CO2, consumi di acqua. Abbiamo l'ambizione di arrivare a una riduzione del 50% dei consumi di acqua al 2015, riduzione del CO2 del 15% al 2015. Quindi vogliamo essere avanti agli altri e esportare in tutte le parti del mondo, nelle nostre fabbriche, lo stesso modello. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Eh sì, il nostro appuntamento quasi quotidiano, quando ci sono notizie con la crisi raccontata in altro modo. Allora, partiamo dalla Grecia, che è il paese dove si evade di più in Europa, il secondo è l'Italia, dove c'è più nero e più sommerso. Allora, dopo un po' di tentennamenti, il governo di Atene si è deciso a lanciare la gogna mediatica contro i grandi evasori fiscali, già minacciata ma mai messa in pratica. Da oggi, infatti, i greci possono leggere online, quindi sulla rete, i nomi di 4.152 connazionali fra privati e aziende che debbono all'erario greco la bellezza di quasi 15 miliardi di euro, che in Grecia è tanta roba, è il 5% del PIL, è come se da noi dovessero dare al fisco 60 miliardi di euro. Per adesso la lista dei cattivi resa nota dal Ministero delle Finanze riguarda solo i cittadini che debbono allo Stato oltre 150.000 euro, ma se l'Authority per la Privacy darà il via, prossimamente sarà consultabile in rete anche l'elenco di coloro che hanno il fisco per cifre, che hanno evaso il fisco per cifre inferiori. Visto che commentavamo la notizia che la Guardia di Finanza ha beccato 7.500 evasori totali, 21 miliardi di euro, forse anche da noi gogna mediatica, vai a vedere chi magari poi ha il figlio l'asilo o la scuola con il sussidio e con l'aiuto perché si dichiara indigente e poi la finanza gli contesta 3, 4, 5 milioni di euro. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Ancora per quello che riguarda questa strana crisi. Sabato scorso a Pisa una famiglia di turisti spagnoli ha in un bar vicino alla stazione ha ordinato 3 cappuccini e 3 brioche, ha pagato 25,80 euro, poi ha incontrato i vigili e ha fatto vedere la cosa e il bar si è beccato 1.000 euro di multa. Vista la dichiarazione dei redditi dei baristi, con massimo rispetto, sarebbe interessante anche vedere se rientrano nella media dei 13.000 euro lordi l'anno. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. E ancora, la crisi non è uguale per tutti, è una lezione che arriva dalla Gran Bretagna. Praticamente in ogni città c'è una recessione un po' diversa. Le città dei saperi, e mi riferisco chiaramente a Edimburgo, dove c'è una grossa università, a Cambridge, Oxford, insomma, tengono. Il 30% dei lavori di Edimburgo, a Oxford, a Cambridge, dove appunto caratterizzati da alti livelli di conoscenza, marketing, pubblicità e consulenza, vanno bene. Altre città invece stanno arrancando. Per esempio, tra la città industriale di Hull e Cambridge è raddoppiata la differenza tra i sussidi alla disoccupazione. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Allora, vedo che c'è chi dice: no, il prezzo del carburante, l'abbiamo spiegato spesso, si forma al 70% con accise e IVA e al 30% con il petrolio. Abbiamo condotto una battaglia in tempi non sospetti, perché non ci tornano i conti. Però il governo può intervenire con le compagnie petrolifere, può ridurre un po' le accise e l'IVA, ma insomma, perché il petrolio è a $100, va anche detto che c'è, è a $100. Vabbè, l'incontro dal ministro Fornero tra le parti sociali, quindi Confindustria e sindacati, dopo che ieri Mario Monti aveva detto che l'articolo 18 non sia un tabù né per governo e per le parti sociali. Non se ne è parlato però oggi, come ha ricordato all'uscita dall'incontro la presidente Confindustria Emma Marcegaglia. Non si è parlato specificatamente di articolo 18, anzi il presidente Monti nella prima parte, quando è rimasto, ha detto: mi auguro e spero che tutta la riforma non si riduca a questo numero. Quindi non si è parlato nello specifico di articolo 18, però si è parlato anche di flessibilità in generale. Quando si parla di flessibilità in generale si parla di flessibilità in entrata e di flessibilità in uscita. Quindi non si sono portate soluzioni specifiche su questo, si è ragionato in termini di sperimentazione, ma non si sono, come dire, non si è affrontato il problema, diciamo, specifico articolo 18. Sui tavoli l'idea è che ci si scambierà da qui alla prossima convocazione del tavolo fisico, che comunque continueranno le convocazioni del tavolo fisico, ci si scambieranno anche, diciamo, opinioni, idee, anche attraverso, diciamo, i tavoli virtuali, cioè via internet ognuno di noi scambierà le opinioni con gli altri. Però, come dicevo prima, noi come parti sociali abbiamo deciso comunque di riunirci tra di noi e vedere se abbiamo delle sintesi già da portare. Adesso arriveremo anche ai temi di cui più si è discusso, e mi riferisco soprattutto alla cassa integrazione straordinaria. Però sentiamo anche Susanna Camusso, leader del CGIL, al microfono della nostra Alessandra Schepisi, dire: attenzione, non vogliamo scelte unilaterali del governo, non ci sono linee guida del governo condivise, non sono state condivise alcune linee del governo. Ascoltiamo la Camusso. Il confronto parte sulle conclusioni di questa mattinata e quindi parte con quattro titoli che sono stati condivisi e credo, mi auguro, con la comprensione da parte del governo che l'esperienza che abbiamo alle spalle è un'esperienza importante e che oggi vanno ridotte le distorsioni, non cancellata l'esperienza che abbiamo, che le distorsioni stanno nella precarietà, nel sommerso, nell'abuso di forme di lavoro autonomo che sono in realtà forme di lavoro a tempo determinato. Abbiamo detto che l'esperienza che abbiamo fatto rispetto al sistema pensionistico è stata un'esperienza negativa che non si può ripetere, non si può ripetere sia per le conseguenze che quell'esperienza ha, sia perché, l'ha detto il Presidente del Consiglio ieri in televisione, si apre un negoziato va fatto. Quindi la Camusso si riferiva al modo in cui il governo ha aumentato le pensioni. Devo dire, ognuno poi la pensi come vuole, però io continuo a ritenere che se il governo Monti scontenterà tutti, lavoratori autonomi, commercianti, tassisti, farmacisti, lavoratori dipendenti con le pensioni, evasori fiscali, se scontenta tutti forse ce la facciamo, però deve scontentare tutti, anche le ferrovie dello Stato, anche lo scorporo della rete, che è scomparsa dal disegno di legge sulle liberalizzazioni. Il segretario d'accise Bonanni, procedere con cautela, non rompere la coesione, dopo aver aggiunto che il governo sbaglia di grosso se punta sull'articolo 18. Quello che è importante è che siamo partiti per un confronto. Spero che il governo non porti la trattativa in un vicolo cieco, perché deve andare a individuare quella strada che mette tutti d'accordo, sia le parti sociali e sia le forze politiche. Quindi spero che il governo non vada a cercarsi i guai. Le parti sociali sono tutte d'accordo nel usare appunto delle strumentazioni già ampiamente sperimentate e da rafforzare anche, secondo noi, andare appunto soluzioni improprie e così via, secondo me ci porta fuori campo. E invece dobbiamo stare nel campo. Meglio allora mettersi sulla strada di ciò che già ha garantito i lavoratori italiani, casomai disegnando un sistema più stabile. Quindi non possiamo giocare, perché mentre stiamo discutendo c'è qualche milione di persone che ha un ammortizzatore e non possiamo dare loro la sensazione che sulle pensioni si è tirato un colpo di maglio e gli ammortizzatori spariscono. Gli è rimasta qui ai sindacati il modo in cui il governo ha operato sulle pensioni, anche, sentite anche Bonanni. Vedo molti messaggi al 349-238-6666, adesso arriviamo. Vorrei ascoltare anche Luigi Angeletti, quindi la UIL, anche lui molto prudenti, sono usciti dall'incontro mettendo le mani avanti. Angeletti è arrivato a dire: temo che la proposta, il metodo proposto possa portare al disastro. Il compito di un governo è quello di trovare delle soluzioni che siano utili agli attori, le imprese e i lavoratori. Se invece pensa che il governo ha la verità e noi al massimo che possiamo aspirare è quello di dare qualche consiglio, va incontro a un disastro politico. Questa mattina nella illustrazione del documento sono stati illustrati molti temi sui quali noi avevamo opinioni ovviamente diverse, lo abbiamo fatto notare e le conclusioni sono state assolutamente diverse, cioè si è preso atto che si poteva concordare un'agenda, quindi dei titoli sui quali lavorare, e che su quei titoli si sarebbe lavorato con la reciproca disponibilità a scambiarsi delle opinioni e a cambiarle ovviamente. Allora, molto cauti i sindacati, che insomma non ho capito se siano rimasti scottati dalla gestione dell'aumento dell'età pensionabile o temono nuove sorprese. Professor Carlo Della Ringa, docente di economia e politica cattolica di Milano, nostro ospite spesso, nonché editorialista del Sole 24 Ore. Buonasera. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Le ho fatto ascoltare i tre sindacati. Prima di tutto però sullo sciopero. Allora, devo leggere due sms. Prendo atto, mio caro dottor Barisoni, che il popolo non può bloccare il paese, viceversa i miei amati politici possono fare di tutto e di più e lei nulla commenta. Condono vitalizi per tutti. Guardi, io non posso sperare che lei ascolti sempre il programma, ma abbiamo fatto decine di puntate sui costi della casta. Ogni volta che becchiamo qualcosa la inseriamo nella rubrica "ma cos'è questa crisi?". Io, più che criticare vitalizi anche dei politici locali, abbiamo fatto la lista la settimana scorsa di quanto guadagnano i presidenti dei consigli provinciali e regionali di Calabria, Sicilia e Sardegna. E poi invece alcuni messaggi che giro a lei, professor Della Ringa. Ma insomma, vi rendete conto che la legge sulla regolamentazione dello sciopero è fatta apposta per non avere effetti, perché lo sciopero non abbia effetti? Allora, poi ci torneremo, ma insomma, esiste un modo per regolamentare lo sciopero che è un diritto ma non può essere, diciamo, selvaggio, professore? Perché adesso sembra che quando tocca ai tassisti e agli autotrasportatori si può fare quello che si vuole, mentre se sono gli operai della FIOM devono stare alla legge prevista dal... non mi ricordo se era quella Giugni oppure successiva. Prego, professore. No, c'è una legge sui servizi minimi essenziali che riguarda settori importanti, non riguarda solo la sanità o i vigili del fuoco, ma anche i trasporti. Anzi, direi che il settore dei trasporti è quello più delicato, perché le categorie sono quelle maggiormente organizzate e sono in grado veramente di far male al paese, all'economia, come stiamo sperimentando in parte già da oggi. E quindi il problema è di fare rispettare i servizi minimi essenziali e soprattutto certe procedure nello sciopero, che deve essere annunciato, non può essere ripetuto, non può durare più di tot. E qui si tratta di che le categorie prendano coscienza del fatto che siamo uno Stato di diritto e che sarebbe altamente disdicevole arrivare al punto che le forze dell'ordine in qualche misura dovessero essere costrette a intervenire. Quindi lo sciopero, un diritto garantito dalla Costituzione, deve essere esercitato nei limiti previsti dalla legge. Le leggi ci sono quelle che le interpretano, come l'autorità di garanzia per i servizi minimi essenziali, e quindi l'invito, penso ragionevole, che deve essere dato anche dai media, è quello di esercitarlo nei limiti fissati. Quindi non può portare a delle conseguenze che sono negative per i cittadini e negative per il paese. Allora, su questo, avendo anche difeso e compreso le ragioni dei tassisti, abbiamo detto più volte che non era da lì che può ripartire la ripresa, tutto quello che volete, però adesso leggiamo che c'è un'auto bianca, un'auto taxi a disposizione ma abbiamo ricevuto decine di segnalazioni la scorsa settimana di anziani con problemi di ambulatori, di disabilità, bambini e mamme che devono portare i bambini. Quando chiamavano il centralino non veniva detto, chiesto, veniva semplicemente detto: guardate, non ci sono taxi a disposizione. Allora dov'è la garanzia necessaria, visto che avete una licenza pubblica? Abbiate pazienza, lo sciopero dei taxi si può fare, lo indicete e noi ce ne beccheremo giustamente le conseguenze, ma non la mobilitazione spontanea e selvaggia senza tutelare, perché è una balla. Abbiamo ricevuto centinaia di tra SMS e mail di persone che si lamentavano di questo. Meteo, pubblicità e poi veniamo invece al nervosismo dei sindacati, professor Della Ringa. 349-238-6666 per i vostri SMS. 17:39 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Scrive un tassista di Milano: qui abbiamo sempre dato il servizio essenziale, si informi prima di parlare. No, si informi lei, mi dispiace, perché o sono pazzi gli ascoltatori che ci hanno scritto in questi giorni, oppure dobbiamo ritenere che in centinaia di casi, e abbiamo verificato anche noi, il centralino anche a Milano 4040 6969 8585 diceva: non ci sono taxi disponibili. Non ti chiedeva, lei è un anziano, ha un problema, ok? Questo sia chiaro. In molti casi neanche rispondevano, quindi si informi lei, abbia sempre con questa arroganza che sapete tutto voi. Allora, professor Della Ringa, torniamo a noi. Che cosa temono i sindacati? Sì, diciamo così, che venga loro presentato una soluzione cui poi loro non hanno contribuito. Questo temono, perché ciascuno poi difende il proprio ruolo. Devo dire che però anche questo nervosismo non va esagerato, siamo un pochettino le schermaglie iniziali, sì. E quindi insomma cerchiamo di giocare un po' basso senza accentuare i toni. A me sembra però giusto che non solo i sindacati, ma le parti sociali che hanno lavorato anche in questi anni, in questi mesi, faccio un esempio, hanno fatto il contratto dei bancari in cui erano previsto formule di flessibilità per inserire 5.000 giovani, cioè anche le parti sociali insomma hanno un po' di esperienza per fare accordi a favore dei giovani, quindi io penso che vadano ascoltate. Per esempio, qualche mese fa c'è stato quell'accordo sull'apprendistato che deve ancora, fra l'altro, essere perfezionato e realizzato, anche quello lo possono mettere sul tavolo e vedere se su quello si può fare qualcosa, rafforzarlo, metterci dentro un po' più di flessibilità. Ecco, quindi io penso che ascoltarli insomma non è tempo sprecato, perché altrimenti si rischia di fare un fronte da una parte il governo e dall'altra parte le parti sociali, che non va bene per nessuno, insomma. Ecco, mi dica un'altra cosa, professor Della Ringa. Il tema del... Allora, loro temono, mettono le mani avanti sul metodo perché non vogliono ripetere, certo. Io leggo le interpretazioni sindacali, l'esperienza delle pensioni, dell'aumento dell'età pensionabile. Ma sul tema della cassa integrazione e dell'articolo 18, ma mi sembra che ci sia un irrigidimento anche sull'articolo 18, anche della CIS, della UIL, che a suo tempo invece avevano avuto 7 anni, 8 anni fa, no, un atteggiamento... Sì, prego. Certo. Innanzitutto cassa integrazione, tutti siamo d'accordo che gli ammortizzatori sociali vanno riformati, per esempio la cassa in deroga non può rimanere in deroga per l'eternità, ma va stabilito un pochettino il regime normale. Ecco, i sussidi di disoccupazione, anche quelli vanno riformati. È chiaro che però viviamo anche in un momento di grande crisi e non è che possiamo dire da domani non c'è più la cassa integrazione straordinaria o dare annunci di questo genere. Si tratta di un percorso che domani potrebbe arrivare anche a un ridimensionamento di questa cassa integrazione straordinaria della mobilità. Per adesso già basterebbe che non ne fosse fatto un abuso, che è questo che talvolta le parti sociali si lamentano, cioè di persone che rimangono in cassa integrazione e mobilità per anni e anni sapendo che si fa un doppio lavoro. Ecco, quindi una politica di attivazione senz'altro è necessaria. Sul fatto di superare l'istituto, io penso che vada fatto un ragionamento serio e le parti sociali vanno ascoltate. Sulla flessibilità bisogna stare attenti, perché è venuto fuori che qui si rischia di peggiorare persino la flessibilità di entrata e qui si rischia di ritornare a 10 anni fa se si colpiscono ancora dei contratti che secondo me invece sono buoni, come l'interinale, il contratto a tempo determinato e l'apprendistato. C'è un certo accordo invece nel combattere la precarietà vera, che sono quei rapporti di lavoro falsi autonomi, che sono le false partite IVA, i falsi stage, quindi mi sembra che tutti sono d'accordo che lì va intensificato il controllo e anche previste una variazione delle norme che possa disincentivare le imprese a utilizzare, certo, delle forme di lavoro che sono subordinate invece camuffate. Ecco, poi quando si tratterà, una volta che tutto questo viene messo sul tavolo e se il governo ha il tempo un po' per ascoltare e inserirsi in questo dialogo che fra le parti sociali non è nuovo ma è già stato avviato in passato, io penso che se poi si trovano delle soluzioni si possa anche affrontare un po' questo problema della flessibilità in uscita. Esistono diverse proposte, non ce n'è una sola, e quindi al momento in cui ci fosse un corpo di interventi che programmati per non solo i prossimi mesi ma per i prossimi anni di riforma del mercato del lavoro, allora io a quel punto non vedo grossissime difficoltà a far ragionare tutti anche su questo punto, soprattutto i sindacati che non hanno mai manifestato una forte avversione a parlare anche di quelle cose. Certo però che se le vengono messe sul tavolo come le prime cose, per loro diventano imbarazzanti, invece loro hanno tutto, certo, l'interesse ad arrivarci per gradi. Io penso che talvolta la gradualità, sia pure nel rispetto della velocità che l'Europa ci chiede una certa gradualità, io penso che possa essere anche considerando risolvere anche la flessibilità, certo, in uscita. Anche considerando il momento storico, cioè è difficile parlare di flessibilità in uscita in piena recessione, magari si può. Bisogna capire anche i sindacati, cioè il messaggio che viene dato, cioè bisogna distinguere, allora bisogna convincere, sì, che da un lato i licenziamenti collettivi va posta una barriera, gli esuberi cerchiamo di vedere se possono essere utilizzati, quindi lì siamo contro i licenziamenti. Però se si tratta di togliere delle barriere che possono permettere ai giovani di essere assunti in misura maggiore, è un altro problema. Però bisogna andarci cauti su queste cose, perché poi per i sindacati devono andarle a spiegare. Senza troppa ideologia, senza un atteggiamento ideologico, né sull'articolo 18, certo, né sul resto. Cioè andando a guardare caso per caso anche la situazione contingente. Non ha fatto bene a nessuno l'atteggiamento ideologico nei confronti dell'articolo 18. Mi dica una cosa, professor Della Ringa, nel salutarla, allora, ai tassisti, vi ripeto, abbiamo ricevuto un centinaio almeno, quelle che ho visto io, tra mail e sms su questa vicenda. Dopodiché non vi arrabbiate con me, io sono dei vostri più grandi clienti, no, dovreste essere contenti che c'è chi il taxi lo prende. Ancora, e non costa poco, come scrivono alcuni, non è vero. Ancora, qualcuno scrive: cosa vai blaterando? Per decenni gli operai hanno bloccato stazioni e città intere, traghetti, ferrovie. È vero, e sbagliavano gli operai. Il professor Della Ringa, in quei casi infatti c'era la polizia, poi venivano convinti. Anche in quel caso erano blocchi non autorizzati, blocchi non accettabili. Prego. Certamente. Qui un po', da un lato ribadire che siamo in uno stato di diritto è che lo spirito di fazione non fa bene al paese. Dopodiché ciascuna categoria deve fare sentire la propria voce a propria difesa, con gli strumenti che lo Stato di diritto mette a loro disposizione. Allora, perché tassisti o le ferrovie? O gli autotrasportatori oggi, per esempio. Perché rendiamoci conto che finché un operaio fa lo sciopero alla Fiat, insomma, lo farà e se la vedrà con la Fiat, ma gli altri italiani possono essere interessati, ma fino a un certo punto. Invece qui i riflessi esterni sulla cittadinanza di scioperi in questo settore, come fosse nella sanità o nei vigili del fuoco, sono molto molto delegati. Ecco, si rendono conto che c'è un problema di conciliare quelle che sono le loro giuste esigenze di far sentire le loro ragioni, però con delle esigenze della cittadinanza, degli utenti che sono dei terzi rispetto alla diatriba, al conflitto, che devono essere salvaguardati. Se no non si spiegherebbe questo bisogno. No, allora il tassista, per esempio, ha una pubblica licenza, infatti non è un privato cittadino che gira con una macchina, torniamo alla polemica tra l'NCC e il tassista, e avrà lo sciopero regolamentato come ce l'hanno i vigili del fuoco, i medici, gli operatori dei servizi pubblici locali, cioè lo sciopero viene indetto, lo indici, ma poi rispetti le regole, non lo fai spontaneamente. Immaginate cosa capiterebbe se i medici andassero in sciopero così, per l'ospedale improvvisamente. Assemblea autonoma, come abbiamo visto capitare con i tassisti e come sta capitando con gli autotrasportatori. Mi dispiace, si chiama stato di diritto, non si possono avere solo diritti quando fa comodo e mai un dovere. Grazie professor Della Ringa, traffico, poi la borsa. Allora, la borsa, bene la prima giornata di borsa, ma soprattutto bene lo spread italiano a 307 punti, l'euro è tornato a quota 1,30, insomma speriamo che sia un ulteriore segnale che si è girata la boa rispetto al si è fatto il giro di boa rispetto a quanto è iniziato a fine maggio, metà giugno soprattutto, quindi un attacco continuo e crescente ai debiti dei paesi più fragili dell'area euro, quindi Spagna, Italia, oltre che Grecia, Portogallo e Irlanda, con conseguenti cali di borsa. La commentiamo come sempre con Radio Cori sulle 24 ore. Livia Zancaner, buonasera. Buonasera. Allora, Monte dei Paschi festeggia anche di suo, più 1,76% Milano, che rivede quota quasi 16.000 punti, 15.900 punti. Dicevo, Monte dei Paschi ha motivi anche suoi, più 14% oggi. Sì, allora assolutamente, quindi le banche a Milano hanno beneficiato del buon andamento del settore in Europa, ma per quanto riguarda il Monte dei Paschi dobbiamo ricordare che venerdì la banca ha presentato il piano di rafforzamento patrimoniale richiesto dall'autorità bancaria europea, un piano che esclude il ricorso a possibili aumenti di capitale, un'ipotesi che era circolata sul mercato nei mesi scorsi e di cui il titolo aveva risentito, quindi oggi ha beneficiato di questo ancora e ha guadagnato oltre il 14%. Ancora, no, 307 non è lo spread, è 407, chiedo venia, gli ascoltatori mi correggono. Unicredito più 10,4%, Finmeccanica più 6,14%, lo spread a 307 è un augurio, quando arriverà a 300 potremmo dire che inizia ad avere un livello abbastanza accettabile, per ora non è ancora accettabile a 407, ma è meglio dei 570 del record. Dicevo, Unicredit, Ubibanca, Intesa più 5,5%, Mediobanca più 5,5%, Mediaset più 4,30, bene tutto il comparto bancario. Assolutamente sì, bisogna ricordare che il comparto bancario oggi ha beneficiato sostanzialmente di tre fattori. Da una parte della discesa dello spread, come dicevi tu, verso quota 400 punti base e anche dei rendimenti che sono scivolati al 6%. Dall'altra parte dell'indiscrezione sull'ammorbidimento delle regole di Basilea 3 e ancora dal miglioramento delle condizioni di liquidità sui mercati, anche in attesa della prossima asta della Banca Centrale Europea in calendario per il 28 febbraio. Eh sì, poi Atlantia, che è andata bene anche oggi, e qui non so se come. Allora, Atlantia è l'ex Autostrade per l'Italia, era calata perché si temeva in un decreto liberalizzazione che andasse a colpire anche modificasse le tariffe e le concessioni in essere. Così non è stato, festeggia anche oggi più 2,14%, bene anche Finmeccanica più 6,14%. Ma che succede a Finmeccanica? Si è risvegliata, o sono, come le chiamate voi, ricoperture? Sì, allora diciamo che Finmeccanica aveva toccato i minimi storici il 20 dicembre e da quella data sostanzialmente il titolo ha recuperato oltre il 34%, ha segnato più 14,4% la scorsa settimana, sì, quindi diciamo che potrebbero essere delle ricoperture, anche perché oggi la controllata Ansaldo ha invece perso l'1,28% sulla notizia che il gruppo Finmeccanica ha praticamente stoppato, bloccato la vendita dell'altra controllata Ansaldo Breda, una notizia che fa diminuire l'appeal speculativo, come si chiama, sui mercati anche per Ansaldo STS. Infatti negativa sia Materna, -1,30%, Enel Green Power, -1,20%, Snam, -1%, mentre Eni oggi ha chiuso con un +0,60%. Però non mi sembra che dal decreto liberalizzazione sia arrivata una botta così forte per Snam, c'è un percorso, fra 6 mesi si inizierà. Sì, infatti, allora bisogna dire che appunto il decreto liberalizzazioni ha confermato la separazione proprietaria tra Eni e Snam. Secondo gli operatori oggi il titolo ha risentito in particolare dell'incertezza derivante alla mancanza di dettagli sulle modalità dell'operazione e in sostanza anche sulla tempistica, perché entro 6 mesi il governo emetterà il decreto con le linee guida e poi l'operazione dovrebbe chiudersi in 2 anni e mezzo. Non si sa ancora chi sarà l'acquirente, l'ipotesi più accreditata secondo gli operatori è la Cassa Depositi e Prestiti. Stiamo sul decreto liberalizzazioni, perché anche Gemina ne ha risentito. Uno può dire perché? Beh, Gemina controlla l'aeroporto di Roma. Sì, allora bisogna dire che appunto Gemina ha chiuso in positivo oggi sul mercato guadagnando il 5%, no, il 2,70%, guadagnava il 5% poi ha limato sul finale. Il decreto liberalizzazioni prevede un'autorità indipendente di sorveglianza per i trasporti che permetterà ai gestori, appunto come Gemina, di adottare tariffe proprie e ammorbidire l'iter burocratico sulle decisioni di ampliamento infrastrutturale. Secondo gli operatori questo, grazie a questo, quindi Gemina potrà introdurre un nuovo sistema tariffario alzando quindi le tariffe. La stima è alzare le tariffe a 18 euro subito e fino a più 40% al 2016, quindi oggi il titolo ne ha beneficiato anche se poi ha limato sul finale. Ancora migliori e peggiori di Mail Group, -5,30%, Metecnimo -4,70%, GDF Suez -3,90%, e migliore Sale Therapeutics +24%, Dada +14%, e poi il Monte dei Paschi l'abbiamo detto, e anche Unicredito +10,40%. Tra i titoli che non ho citato, ma vale la pena ricordare, Azimut +4,80%, Mediaset +4,32%, Fiat Industrial, quindi camion e trattori, +4,11%. E ancora Banco Popolare ha fatto +3%, come la Popolare Emilia Romagna ha fatto +2,90%, Di Assorin +2,20%, Buzzi Unicem +2%, Fiat Auto +1,70%, Euro a quota 1,30,33, America -0,20% in questo momento, Milano si conferma la borsa migliore perché appunto Parigi e Francoforte hanno guadagnato 0,5 punto percentuale, Londra lo 0,90%. Grazie a Livia Zancaner, Radio Colli Sole 24 ore. Dopo il GR avremo ospiti gli autotrasportatori, quelli che stanno bloccando i caselli e quelli che sono contrari al blocco dei caselli. 349-238-6666 per gli SMS. -18:07 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. E allora occupiamoci adesso degli scioperi, di quello che è un diritto e di quello che invece è un atto, lo dico senza mezzi termini, a mio avviso, di inciviltà. Il diritto è scioperare secondo le norme previste dalla legge, che prevede giustamente diversi obblighi a seconda del lavoro che rivesti. Se sei un infermiere, un medico, un vigile del fuoco, ma anche se guidi un tram, un mezzo pubblico, e vale anche per altre categorie, l'autotrasporto, perché come abbiamo visto in Sicilia poi crei un disagio totale, rischi di bloccare, hanno dovuto scortare con i carabinieri le autocisterne che servivano per la benzina dei vigili del fuoco. In quei casi c'è una normativa, una legge che prevede assolutamente il diritto allo sciopero, che è un diritto costituzionale, ma con determinate modalità, proprio perché e riuso l'esempio del del professor Della Ringa, se sciopera l'operaio della Fiat ha un danno lui, ha un danno l'azienda, ma il cittadino normale non è che se non compra la macchina quel giorno ha un danno tragico, ma se tu blocchi l'autotrasporto per quello che riguarda i rifornimenti di generi essenziali, latte, alimentari e anche benzina, al di là del danno economico, non è questo che mi interessa in questo momento, ma c'è un diverso ruolo, vale anche per i tassisti. Ripeto, io non ho detto, ho riferito di un centinaio circa, abbiamo contato di mail che di cittadini i quali non erano riusciti in questi giorni a trovare un taxi pur essendo, sostengono loro, anziani o con problemi di disabilità o con figli molto piccoli, perché il centralino si bloccava, cioè non riuscivo nemmeno a spiegarlo al centralinista. Fatemi una ragione, insomma, è successo così. Sciopero dei TIR, dicevamo, si è estesa tutta l'Italia la protesta degli autotrasportatori, cominciata in Sicilia con gli aderenti a Forza d'Urto. Scattato mezzanotte lo sciopero dei TIR proclamato trasporto unico fino a venerdì 27. La protesta è stata decisa contro la mancanza di provvedimenti certi del governo sulla disciplina del settore, quindi cerchiamo di spiegare anche su che cosa scioperano alcuni autotrasportatori, quindi l'applicabilità dei costi minimi, i tempi di pagamento e la certezza per quello che riguarda il credito, e poi sugli aumenti dei costi fissi, quindi gasolio, autostrade e assicurazioni. E poi ritenuto insufficiente l'inserimento nel decreto sulle liberalizzazioni del pagamento trimestrale del recupero delle accise sul gasolio. L'adesione è molto forte e soprattutto vengono bloccati in alcuni casi gli accessi alle autostrade, con disagi che ascoltavamo anche prima molto forti. C'è chi sciopera, c'è chi è contrario allo sciopero, e parlo sempre di autotrasporto. Allora saluto intanto, vediamo se arriva anche Maurizio Longo, che è segretario nazionale di Trasporto Unito. Saluto intanto Cinzia Franchini, presidente nazionale della CNA FITA, ossia 35.000 imprese di autotrasporto rappresentate. Buonasera, presidente. Buonasera. Allora, buonasera. In attesa di avere, ma non ci risponde al telefono, peccato, perché volevo sentire veramente con Longo le mi dica qual è il motivo della vostra crisi. Io ho citato in maniera molto sommaria, ma perché voi siete contrari a questo tipo di agitazioni? Guardi, CNA FITA è stata l'unica associazione che non ha proclamato il fermo. Detto questo, certamente le imprese d'autotrasporto stanno soffrendo, si trovano in una situazione drammatica, sono imprese entrate in crisi prima di tutte le altre, per cui le motivazioni per protestare e per manifestare il malcontento ci sono tutte. Detto questo, noi riteniamo che in questo momento particolare per l'intero paese la strada del fermo e dei blocchi non sia la strada giusta per ottenere i risultati che alle nostre imprese servono. Noi riteniamo che la strada corretta, ed è quella che noi abbiamo deciso di intraprendere, sia la strada del dialogo sia con il governo e sia anche con la committenza. Allora, che cosa vorreste o sperereste di ottenere? Beh, guardi, noi abbiamo chiesto al governo già a dicembre alcuni provvedimenti e le devo dire che rispetto ad alcune richieste avanzate abbiamo ottenuto anche in tempi rapidi risposte concrete da parte del governo Monti. Mi riferisco in modo particolare al rimborso e restituzione delle accise, alla conferma delle risorse per il mondo dell'autotrasporto, i 400 milioni, mi riferisco anche alla norma sui costi minimi di sicurezza. Per cui rispetto ad alcuni provvedimenti importanti noi abbiamo ricevuto risposte altrettanto importanti dal governo Monti. Che cosa vorreste in più, presidente Franchini? Beh, guardi, le cose in più sono veramente tante. No, tante. Diciamo il minimo sindacale, visto che parlo con dei sindacalisti, il minimo sindacale, cioè che vorreste ottenere dal governo Monti? Diciamo questo, CNA FITA da diversi mesi, esattamente dal 25 luglio, quando abbiamo fatto una manifestazione importante in tutta Italia, ha evidenziato il fatto che il problema sta diventando, ed era già diversi mesi fa, quello dei costi fuori controllo. Quindi il costo del gasolio, dei pedaggi, dei traghetti e delle assicurazioni. Noi chiediamo che il governo intervenga in questa direzione. Per quello ad esempio che riguarda le assicurazioni, sappiamo che il viceministro Ciaccia ad esempio si è già attivato, però dall'attivarsi all'avere risultati concreti ce ne passa. Per cui ci aspettiamo in questo senso non dico provvedimenti spendibili, però che il governo si attivi concretamente per migliorare la situazione. Allora, in questo momento, intanto ringrazio perché ci ha raggiunto in collegamento invece chi sta scioperando, ossia Maurizio Longo, segretario nazionale di Trasporto Unito, 8.000 iscritti tra gli autotrasportatori. Buonasera Longo. Buonasera, salve. Allora, la situazione, vado in ordine cronologico. Poco fa, un'ora fa, il garante Roberto Alesse, presidente dell'autorità di garanzia sugli scioperi, ha detto: i blocchi causati dalla protesta degli autotrasportatori sono inaccettabili e aprirò un procedimento per valutare le sanzioni da irrogare a chiunque stia violando la legge e danneggiando i cittadini. Allora, il movimento dei forconi, come viene chiamato, insomma, ha bloccato il porto di Carrara, presidio al casello 1 della Val di Chiana e al porto di Livorno, bloccato l'accesso alla raffineria Eni a Taranto, protesta anche a Napoli. E Unipan, l'associazione dei panificatori campani, dice che fra 2-3 giorni ci sarà l'SOS, l'emergenza pane a Napoli, disagi nel napoletano anche per il trasporto dei rifiuti. Mi dica una cosa, abbiamo capito quelle che sono le vostre richieste, le ricordavo in parte anche la Franchini, e quindi insufficiente pagamento trimestrale del recupero dell'accisa sul gasolio, aumento dei costi gasolio, autostrada, assicurazioni, tempi di pagamento, applicabilità dei costi minimi e certezza del credito. Però lei almeno può condannare non lo sciopero che avete indetto, ripeto, è un diritto, ma i blocchi ai caselli, ai porti? Ma sicuramente, noi abbiamo dato precise indicazioni, non si fanno blocchi stradali e si consente, anche laddove l'imprenditore nostro aderente o comunque aderente alla manifestazione debba trasportare alcune merci, queste debbono poter viaggiare, quindi il codice di autoregolamentazione è applicato. Laddove ci dovessero essere delle violazioni, noi siamo i primi a intervenire. D'altra parte, tutti i presidi, diciamo le assemblee permanenti che si sono svolte e si stanno svolgendo, noi le abbiamo registrate, le abbiamo comunicate alle questure con il diretto responsabile. Quindi da parte nostra c'è una trasparenza operativa molto molto dettagliata. Se ci dovessero essere delle attività dei manifestanti che non corrispondono e non hanno, diciamo così, intenzioni di rappresentare l'esigenza degli autotrasportatori, ma tutt'altro, noi sicuramente non li abbiamo nei nostri registri, perché è evidente che ci dissociamo da qualsiasi manifestazione di protesta che non sia legata evidentemente al mondo dell'autotrasporto, alle nostre esigenze e ai nostri problemi che sono davvero gravi. Nel frattempo leggo un'agenzia: 441 tassisti napoletani sono stati denunciati dalla Polizia Municipale per il reato di interruzione di pubblico servizio. Si tratta per la maggior parte di tassisti che dall'11 al 17 gennaio hanno occupato Piazza del Plebiscito per protestare contro il pacchetto di liberalizzazione del governo Monti, lo prevede la legge ed è così. Longo, resti con noi, ho il traffico che si occuperà chiaramente anche di voi, e poi vorrei capire, insomma, al di là dello sciopero, mi sembra netta la sua critica a chi ha bloccato i blocchi, che altra cosa sono rispetto allo sciopero, come se ne esce anche per voi, qual è il minimo sindacale, perché immaginare che Monti faccia tutto è impossibile. Si può puntare, diciamo, a una soglia minima. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora Longo, ha sentito, insomma, i blocchi non solo restano ma aumentano. Mi può ridire, mi scrivono gli ascoltatori, anche la barriera di Villanova tutto bloccato, fuochi in mezzo alla corsia autostradale. Allora, può ribadirmi la condanna, cioè che il vostro obiettivo non è questo? No, io lo ribadisco fermamente. Noi abbiamo fatto un comunicato circa 2 ore fa dando istruzioni a chi presiede questi posti e organizza queste assemblee permanenti di non fare blocchi. Tra l'altro abbiamo anche dato indicazioni di aprire, ci sono delle attività che hanno ripreso, abbiamo detto di laddove ci dovesse essere una tensione molto alta di far ripartire i mezzi, non abbiamo l'intenzione di bloccare in questo senso il paese, noi dobbiamo provare a costruire le condizioni affinché si risolvano i problemi, siamo un'organizzazione di interessi, non siamo un'organizzazione che organizza manifestazioni per altri obiettivi, ci mancherebbe altro, mi spiace quello che sta avvenendo, però devo sottolineare un'assenza da parte del governo, perché mi pare di capire che insomma ci sia un atteggiamento di chiusura, c'è cioè un po' di miopia rispetto a quello che avviene sul territorio nazionale. D'altra parte noi non stiamo chiedendo risorse economiche o operazioni impossibili, abbiamo mandato un programma dettagliato di proposte tra principali e secondarie. Quantomeno, siccome non si tratta di richieste di natura economica, ma sostanzialmente di provvedimenti da attuare immediatamente, mi pare che si possa ragionevolmente tentare di capire se possono esserci delle risposte o meno. Allora, restiamo e poi torno anche al presidente di Ceneafite, però la richiesta minima, cioè che cosa dite? Non vogliamo soldi in più. Allora, sulle assicurazioni. E lì c'è il sottosegretario Ciaccia che in effetti si sta già muovendo, ma poi anche il costo del gasolio, autostrada assicurazione, cioè che cosa chiede al governo? Perché c'è anche un prezzo della benzina che ha del petrolio che è a $100, poi c'è il 70% del prezzo del gasolio e della benzina che deriva da accise e IVA. Guardi, sulla questione del gasolio, che è la questione centrale, noi diciamo una cosa partendo da un presupposto, cioè il settore dell'autotrasporto è oggi il settore più indebitato dell'intero sistema dell'economia nazionale. Partendo da questo presupposto, quando dall'oggi al domani si aumenta l'accisa in quel modo, significa creare una penalizzazione forte da un punto di vista della liquidità finanziaria. Noi diciamo che il recupero di €190 per 1000 litri di gasolio, che è solo una parte delle accise, mette in difficoltà le imprese. Allora si tratta di capire se è possibile trovare una soluzione a monte, e cioè consentire alle imprese, nel momento in cui devono pagare la fattura dell'acquisto del gasolio, di scorporarla, quella parte a rimborso, perché il rimborso non vedo perché lo debba chiedere l'impresa di autotrasporto, che deve fare 4 domande l'anno e ogni domanda, che guarda caso si fa presso le sedi delle associazioni, costa €100 minimo. Allora, quindi voi volete che lo faccia l'impresa questo? Noi vorremmo che lo faccia chi vende il carburante, che emette la fattura e dice questo te lo storno perché lo vado a riprendere direttamente dallo Stato. Ora, questo agevolerebbe quantomeno, perché oggi con l'indebitamento che abbiamo non abbiamo i soldi per comprare il gasolio, ci dobbiamo mettere d'accordo. Poi gli interventi sul costo industriale, secondo noi ci sono margini e purtroppo la liberalizzazione non va in quella direzione. Le faccio anche un esempio di carattere organizzativo. Noi abbiamo la possibilità di fare anche acquisti collettivi che consentirebbero alle imprese di autotrasporto di risparmiare nell'acquisto in quantità. Lei sa che non tutte le regioni accettano la possibilità che le imprese di autotrasporto si possano consorziare per ottenere gli acquisti collettivi. In molte regioni l'agenzia predisposta per l'autorizzazione non concede l'autorizzazione, allora ci dobbiamo mettere d'accordo, noi dobbiamo trovare delle soluzioni intelligenti. Sì, allora, guardi, su questo sono d'accordo, anche perché poi invece dei massimalismi, dei grandi proclami, dei blocchi che alcuni dei suoi associati stanno facendo sulle autostrade, meglio ragionare su piccoli dettagli, magari non sono così eclatanti, ma voi cambiano e non poco anche la situazione. Questo è un paese che si innamora dei grandi massimalismi ideologici, magari delle volte con un po' più di pragmatismo. Alcune delle cose che lei ha detto si possono vedere, se non sono poi un danno per le imprese. Però due cose le voglio leggere. Scrivono molti ascoltatori: anche per noi le assicurazioni costano, le autostrade costano, la benzina costa, cosa ci mettiamo a fare? Siamo lavoratori dipendenti di imprese, blocchiamo i camion all'ingresso anche noi, cioè diventa la guerra di tutti contro tutti, non è che questo problema ce l'abbia solo l'autotrasporto. Beh, però è diverso, no. Guardi, per carità, ma non è che il resto, cioè, non è che il resto del paese non abbia subito dall'aumento dell'età pensionabili, farmacisti per motivi loro. Potete... Se mi consente, le aprirei una parentesi per farle comprendere meglio che cosa è avvenuto. Perché fino a un certo punto, siamo fino al 2009 circa, le compagnie di assicurazione avevano con le organizzazioni dell'autotrasporto un sistema di convenzione. A un certo punto, non si capisce perché, tutte le compagnie hanno deciso di eliminare questo sistema e di moltiplicare questo costo, faccio un esempio medio, da 3.000 a 12.000 euro, il costo di una polizza di un autotreno, e in molti casi addirittura ci sono agenzie che si rifiutano di assicurare il veicolo industriale. Allora, qui è un problema di parlare con l'ANIA, ossia chi rappresenta le assicurazioni. Le dico, è un problema di governo che deve addirittura imporre, evidentemente. Certo, no, ma guarda, io non faccio nessun sconto agli assicuratori come alle banche, ma ci mancherebbe, però... Questo è un dialogo che va aperto subito, ma nel rispetto della legge. Presidente Franchini, intanto devo leggere un sms di un tassista. Ma se lei per fare giornalista avesse comprato una licenza da 100.000 euro con un mutuo, cambierebbe qualcosa? Beh, le posso chiedere se a lei, se facesse il tassista con il prelievo delle tasse alla fonte e quindi pagando tutto, cambierebbe qualcosa? Cosa vuol dire? Io faccio un lavoro in cui sono dipendente e ogni mese ho il prelievo su tutto, fino all'ultimo euro, adesso non lei nel caso specifico, ma non mi può dire che la sua categoria vive la stessa cosa. Allora, il punto è un altro, il punto è scioperare, ma nel rispetto della legge, non tirando pugni sui taxi che non vogliono scioperare. Questo non è accettabile se lo fanno quelli della FIOM, non è accettabile se lo fanno anche i tassisti, non ne frega nulla. Non intasando un centralino per cui non si riesce a chiamare anche se tu hai un problema urgente, non partivano i centralini, né a Milano né a Roma. Chiusa con sta cosa, perché sennò sembra che l'Italia si muova solo sui tassisti. Che palle. Allora, Presidente Franchini, è d'accordo con Longo, che mi sembra un po' più morbido, e chiederete qualcosa di concreto al governo, un incontro subito? Guardi, io sono certamente d'accordo su alcune affermazioni di Maurizio Longo. Condivido però anche quello che il suo ascoltatore diceva nell'SMS. Ed è per questo che noi insistiamo sul discorso delle liberalizzazioni. Meglio, il mondo dell'autotrasporto è stato forse ad oggi il solo e unico veramente liberalizzato. Quindi se noi siamo liberi e liberalizzati, è corretto che anche i nostri grandi fornitori, che poi sono fornitori nostri ma anche di tutti, giustamente come ricordava lei, le assicurazioni costano per tutti, i pedaggi costano per tutti e il carburante costa per tutti, allora è corretto che anche questi vengano veramente liberalizzati e che si possa avere beneficio da queste liberalizzazioni, si possa sul mercato trovare in questi servizi a un costo più conveniente. Questi sono problemi che accomunano il mondo dell'autotrasporto, del trasporto merci, del trasporto persone e tutti gli utenti della strada. Sì, poi c'è chi invoca lo sciopero generale di tutti gli italiani. Sì, scioperiamo tutti contro tutti, blocchiamoci tutti, non facciamo più niente. Vedrai che le cose così cambiano e si risolvono, ma io non lo so. Vabbè, strano che però questa voglia di bloccare il paese non ci fosse fino a 2 mesi e mezzo fa. Manco che tutti questi problemi li abbia creati Monti, ma per favore. E invece molti citano la Francia. Guardate che non è che si debba per forza sempre prendere esempio dai peggiori. La Francia ha dei problemi enormi in questo momento a fare le riforme, proprio perché alcune categorie, anche gli autotrasportatori, anche gli agricoltori, bloccano in maniera selvaggia il paese. Ma non mi sembra un bel esempio. Tutto qui, in bocca al lupo, lo dico seriamente a tutti gli autotrasportatori italiani, perché alcune delle cose che abbiamo sentito sono assolutamente ragionevoli. Il fronte delle compagnie di assicurazione, il fronte, diciamo, di una procedura burocratica con le imprese sul pagamento del carburante, e anche forse si può lavorare sulle accise. Nessuna comprensione invece per chi sta bloccando le autostrade e la circolazione dei normali cittadini. Non ce l'avremo mai per nessuna categoria. Grazie a Maurizio Longo, segretario nazionale di Trasporto Unito, grazie a Cinzia Franchini, presidente nazionale di CNA FITA, da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.